24 mattino. Io ho pensato un saluto sobrio, perché sono le crocette in fondo, sei un uomo spartano. Addio Sicilia, ti lascio al cuore. Crocetta Crozza che canta anche. Io voglio per me. Un seggio in Parlamento. Eccoci qui. Era l'addio di Crocetta, anche se con la voce di Crozza, e noi siamo impegnati in una puntata speciale perché stanno arrivando i voti. E attenzione, arriva un dato che i giornali hanno solo sfiorato, tutti ne parlano, ma sulle pagine di oggi non c'è il dato definitivo di Ostia. Ebbene, le percentuali, eccole qui. Il candidato del centrodestra, Monica Picca, ha raccolto il 26.66%, 10% la lista della Meloni, 8 Forza Italia, 2% la lista civica, pensate, 4% a Ostia di Salvini. Poi c'è il candidato di Casa Pound, ci si chiedeva per tanto tempo se avrebbe raggiunto una quota, ha preso il 9.12%, vi sto leggendo direttamente i nostri potenti mezzi, Luca Sappino li ha recuperati dal database. Ed ecco del comune, ed ecco qui il candidato, pensate, ne parlava tutto il mondo, la CNN ha fatto servizi su questo, Francesco De Donno, il direttore della Caritas, un prelato che si è dimesso per candidarsi, ha preso un sorprendente 8.42%. Il candidato del PD ha preso il 13.69% e il candidato del Movimento 5 Stelle è in testa, 30.32%, e quindi vanno al ballottaggio il Movimento 5 Stelle e Monica Picca, la candidata meloniana del centrodestra. Era giusto darvi questo aggiornamento in diretta perché oggi siamo sulle notizie a caldo, sta per iniziare lo scrutinio alle elezioni siciliane. Parentesi, una follia, cioè vi rendete conto, tutta l'Italia e tutti i giornali e tutti i dibattiti politici sono stati improntati su un exit poll che è, come dire, una cabala, cioè sì, un dato di proiezione, ma che, come dicono gli stessi analisti, ha un margine di errore. Allora iniziamo con i titoli dei giornali che sono segnati da questa incertezza. Il Corriere della Sera, exit poll, centrodestra avanti di poco e sottointeso in Sicilia. Il fondo di Massimo Franco, sconfitte e segnali eloquenti. Il Fatto, destra un passo avanti ai 5 Stelle, perché questo, come sapete, ormai è la forbice che è stata disegnata da Piepoli. Erano due gli istituti che facevano i rilevamenti. Quella di Piepoli dice che Musumeci è fra il 36 e il 39, e che Cancelleri, candidato a 5 Stelle, lo tallona con una percentuale che può andare fra il 34 e il 37. Quindi, secondo l'exit poll di Piepoli per la RAI, il candidato 5 Stelle avrebbe ancora una possibilità di vincere. Secondo Masia, invece, per la 7, no, il massimo risultato di Cancelleri non potrà mai raggiungere il minimo risultato di Musumeci. Allora, il fondo di Travaglio, due Sicilie e due Italie, e questo è il Fatto Quotidiano. Il giornale, Renzi KO, Silvio c'è, elezioni in Sicilia, lo abbiamo sentito Sallusti poco fa, ma chi si è collegato ora? Il giornale titola su questo fatto che tutti i sondaggi, come dire, sono concordi a indicare, e anche gli exit poll. Il centrosinistra di Renzi passa dal 30% con cui ha vinto Crocetta al 20% ed è fuori dalla partita. Anche Libero punta su questo, sinistra sfasciata, primo verdetto delle elezioni in Sicilia, il voto sull'isola sancisce la disfatta di renziani e antirenziani divisi fra loro e ignorati dagli elettori, ne approfitta il centrodestra che a forza di fingere di essere unito, questa è buona, è in testa sui grillini che sono di gran lunga il primo partito, un'ottima analisi di Pietro Senaldi che poi gira. E astensionismo oltre il 50%, qua ci sono due giornali che sollevano questo importante risultato, lo sottolineano in prima pagina. Uno è Bechis sul Libero, l'altro è Luigi Crespi sul Tempo. Il Tempo ha un titolo carino: minchia che centrodestra, punto esclamativo. Exit poll in Sicilia, Musumeci in vantaggio di 3 punti sul candidato Grillino. Crolla il PD, se oggi lo spoglio conferma i primi dati cambieranno le sorti del paese. Sempre dal Tempo, la foto centrale dedicata alla Roma: Impero Romano, 12° successo in trasferta. Avete sentito i gol prima, perché è il record nella storia della Serie A, mai nessuna squadra è riuscita a inanellare una striscia di 12 vittorie consecutive fuori casa. La Stampa: centrodestra avanti, Movimento 5 Stelle a un passo, l'urna premia Berlusconi l'antipopulista e il fondo di Sorgi, gli daremo un'occhiata. Il Foglio, attenzione perché il quotidiano diciamo più vicino a Renzi, però il suo titolo oggi è nel fondo lungo di analisi anche interessante di Cerasa, che dice: storia di una non notizia, Renzi non è più il candidato premier del centrosinistra. E però questo titolo lo fa oggi Cerasa, quindi evidentemente un po' notizia deve essere. Sicilia, il crollo della sinistra, anche Repubblica, anche se con un tono diverso, un pathos più partecipato, mette il piede nella crisi del centrosinistra, il PD e il rischio dell'irrilevanza. Stefano Folli, durissimo, il quotidiano di Largo Fochetti, mette l'accento su questa crisi. Attenzione, vi leggo una cosa che servirà anche al dibattito con Oscar. La Fornero, in questa diatriba, e come sapete simpaticamente ci fa discutere da settimane, la Fornero prende la voce e dice: cioè, pensioni, ora l'età del ritiro va alzato, basta mentire al paese. È quasi scomparsa dalle prime pagine la strage in Texas, ma è giusto ricordarla con un titolo di Repubblica: Texas, un folle entra in chiesa e fa una strage. Di nuovo il sangue del terrorismo, anche se questa volta non è di matrice islamica, ma sembra si tratti di uno squilibrato. Vinciamo il derby è il titolo del Corriere dello Sport. Roma travolgente a Firenze 4-2, record di vittorie esterne, quello che vi dicevo. Di Francesco applaude e carica. La Gazzetta dello Sport ha un titolo molto carino col gioco di parole: Milan rimontella. Sì, perché l'altro dato interessante è che a Reggio Emilia i rossoneri, con Romagnoli, un gol bellissimo, uno stacco imperioso e Suso, vincono 2-0 dopo una partita per nulla facile. Il tecnico batte il Sassuolo e si salva, stiamo parlando di Montella, ora è 7° da solo. E vai, ci fermiamo per il meteo e torniamo fra poco. Scusate, mi ero dimenticato perché è arrivato proprio adesso. Ecco, sono arrivati ora gli ultimi due giornali. Sicilia, centrodestra davanti al 5 Stelle, il Messaggero e il Sole 24 Ore. La polizza dell'Italia si chiama Reputazione, caccia al bonus migliore per il lavoro dei giovani. L'apprendistato costa meno, ma fatica a decollare. Ci sentiamo fra poco, ciao! Ma voi veramente non state bene. Fatevi vedere, io ve lo dico fraternamente. Ma mi volete rilassare? Mannaggia. State ascoltando un programma offerto da Fidelity International, soluzioni di investimento per costruire un futuro migliore. Quattro mattino. Vivevamo nelle ristrettezze, io cercavo di fare qualche cosa per aiutare la gestione familiare, così per esempio andavo in una fattoria dove mettevo a posto, scopavo il cortile, rassettavo tutto e a 8 anni imparai anche a mungere le mucche. 8 anni Silvio imparò a mungere le mucche, sembra una vittoria vintage, questo è il senso che vi do, ma voglio cominciare subito a raccontare le analisi che i giornali fanno. Allora abbiamo detto che l'unica cosa certa degli exit poll è che il centro-sinistra era per sommi capi al 30.5% con Crocetta ed era vincitore e governava la Sicilia. Adesso la coalizione fra Alfano e il PD è precipitata al 20. Allora leggiamo subito che cosa dice Fabio Martini, collegando anche il dato che vi abbiamo dato di Ostia, dove il PD che governava quel municipio, è un altro dato, un altro paese d'Italia, è al 14% e anche lì fuori dal ballottaggio, un ballottaggio di nuovo fra centrodestra e Movimento 5 Stelle. La Sicilia e Ostia, scrive Fabio Martini sulla Stampa, non sono l'Italia, ma il combinato disposto è eloquente. Nella quarta regione del paese, in uno dei quartieri più grandi di Roma, il PD usciva come governante e si ritrova perdente. Ma soprattutto, ecco la sorpresa, si scopre ridimensionato. Le percentuali ottenute dal partito si definiranno soltanto oggi. Non sembrano destinate a cambiare, qui parlo ovviamente della Sicilia, la scala del PD in quelle due realtà pur così diverse. Da partito in maggioranza relativa a partito medio-piccolo, un ridimensionamento che sarebbe irrazionale trasferire sul piano nazionale, eppure il voto del 5 novembre rappresenta per il PD il punto di caduta più basso di un ciclo elettorale sempre più sfavorevole. Questo è il racconto di Fabio Martini, spesso sentiremo in retroscena, e vi dicevo di Repubblica, che ha un'analisi, come dire, simpatetica, quella abbiamo detto con Stefano Folli, addirittura il titolo cattivissimo è il PD e il rischio della irrilevanza. Nella singolare notte siciliana, in cui i voti restano congelati nelle urne in attesa di essere scrutinati con calma stamani, ripeto, questo lo dico io, una follia, tre dati sembrano già abbastanza certi. Il primo è ovvio, riguarda la scontata indifferenza dei siciliani verso un rito elettorale da cui non hanno granché da sperare. La percentuale dei votanti equivale all'incirca a quella del 2012, forse un po' più bassa. Niente di sorprendente, ma chi dovrebbe rammaricarsene sono i 5 Stelle, per il tipo di messaggio di cui si erano fatti interpreti e per la retorica che ha caratterizzato e che avrebbe dovuto far breccia nella loro campagna elettorale. E il crollo elettorale del secondo dato certo si è risolto in un testa a testa fra Movimento 5 Stelle e centrodestra di Musumeci, senza che nessuno sia riuscito a scalfire la montagna degli astensionisti. Ovviamente parla del crollo della partecipazione. Aggiunge Folli: secondo gli exit poll di ieri sera, e siamo Repubblica, pagina 6, a prevalere di poco sarebbe il candidato del cartello elettorale Berlusconi, Salvini e Meloni. Non c'è da stupirsi considerando la tradizione della destra in Sicilia, ma se questo sarà il risultato reale, i 5 Stelle avranno qualcosa su cui riflettere. Poi il terzo dato di cui parlava e di cui parla Folli su Repubblica: il più clamoroso e significativo sul piano politico, la disfatta del PD, benché ampiamente annunciato, il crollo della lista di centrosinistra colpisce. Dal 30% di 5 anni fa al 17% di oggi, si dovrà capire se il PD è sceso sotto il 10% rispetto al 13,5% del 2012, il PD come partito, e occorrerà misurare qual è lo stato, alla fine dei conti, l'apporto dei centristi di Alfano o di quel che ne resta. In ogni caso, e quali che siano le ragioni della sconfitta, il PD vede ridursi la coperta e più debole sia sulla destra che sulla sinistra. Questa l'analisi ovviamente numerica, proprio sui dati numerici. Adesso andiamo al racconto di quello che è accaduto. Renzi, secondo Carlo Bertini sulla Stampa, Renzi prova a rompere l'assedio, se vogliono le primarie ci sto. E poi il passaggio decisivo sulla direzione che attende il segretario, il quale dispone di numeri blindati, ci racconta Bertini sulla Stampa, pagina 4, nel partito. Io sto a quel che ha detto Orlando sul voto in Sicilia, che non ha nessun effetto sulla richiesta di dimissioni, dice la Zampa, che fa parte della corrente di minoranza vicino al guardasigilli, suffragando così la previsione del leader Renzi. Sul fatto che nessuno proverà a scalzarlo al suo posto, gli chiederanno di aprire le primarie di coalizione se qualcuno vuole farle bene, dice Renzi. Gli altri alleati timorosi forse di una sua nuova affermazione che chiuderebbe i giochi. Quindi lo schema, dice ancora Renzi riferito da Bertini, È lo stesso del centrodestra, ognuno per sé e chi ha più voti conquisti la leadership. Così dicono i suoi uomini, tradotto. Quelli di Pisapia potrebbero dire, davanti a un clamoroso successo della loro lista e del centrosinistra, che tocca a uno del PD, magari a Gentiloni, Del Rio e Franceschini, ma non a Renzi, guidare la coalizione. Si vedrà ad urne chiuse. Una vittoria netta porterà a Palazzo Chigi chi ha più numeri, dice uno dei big del partito. Quindi si è aperta la partita e secondo quello che dice Bertini è abbastanza complessa, perché secondo il retroscenista della stampa i maggiorenti e quindi gli uomini dell'opposizione a Renzi non chiederanno la sua testa. E Renzi parla anche in altri retroscena, dicevo il giornale fa il punto sulla crisi progressiva di consensi dopo il massimo raggiunto nella stagione delle europee. Renzi è in caduta libera da un anno, perde sempre, dilapidato il 40% delle europee, dal referendum alle comunali, ci racconta Roberto Scafuri sul giornale a pagina 4, il segretario ha sbagliato ogni mossa. E ecco che cosa dice il fondista del giornale. Raccoglie ciò che ha seminato, così persino la generosissima terra di Sicilia riserva al segretario un'arida mietitura. Il PD precipita al di sotto di quella fatidica soglia del 13% che Levrina e Nazzareno da giorni avevano messo avanti con mani molto arrendevoli. La scarsa eredità bersaniana del 2012 era il punto da raggiungere, eppure in questa corsa a perdere l'essere giunti al confine della doppia cifra rende il partito più inquieto che mai. E vi dicevo sul Corriere della Sera un altro retroscena sulle parole di Renzi, della Meli, che in parte collima con quello che ci ha raccontato Bertini sulla stampa e però ha un elemento in più, e allora è importante perché stiamo parlando. Renzi, abbiamo perso, i bersaniani decidono cosa fare nel 2018. Nessuna sorpresa, dice questo Renzi parlando ai suoi, secondo la Meli. Non credo che per questi voti su cui c'è tanto a ragionare qualcuno nel mio partito vorrà sparare a zero senza riflettere. Il 13 novembre ci sarà la direzione, i numeri sono quelli che sono e per me non c'è problema, dice Renzi. Però spero che anche i più critici si rendano conto che c'è bisogno di uno sforzo in più da parte dell'intera squadra perché siamo tutti nello stesso partito. E vi risparmio il passaggio dei dati perché ormai l'avete sentito tante volte. E il nodo: il contributo di Bersani e D'Alema è quantificabile intorno all'1% circa, secondo Renzi. La defezione degli scissionisti alle elezioni nazionali farebbe invece la differenza. L'eventuale decisione, scrive la Meli, di D'Alema e Bersani di correre in proprio equivarrebbe alla sconfitta del centrosinistra sul tavolo da gioco delle elezioni nazionali. Sarebbe una responsabilità non da poco. Per questa ragione, da una parte degli scissionisti e dei fuoriusciti, si mantiene un canale di collegamento con il PD. Questo è il Corriere della Sera a pagina 7 che racconta gli effetti duri, durissimi sulla sinistra. Chiudo con la stampa perché c'è l'attacco a Grasso. E come sapete una frase, scusate, col Corriere della Sera l'attacco a Grasso è una frase che ha detto nei commenti della notte. E hanno detto i dirigenti del Partito Democratico e l'attacco a Grasso diventa un caso. E il titolo del Corriere della Sera sulle parole di Davide Faraone, proconsole di Renzi in Sicilia: mica gli ha dimostrato il coraggio che non ha avuto il presidente di Palazzo Madama. E Macaluso sullo stesso giornale risponde duramente: al PD manca una cultura politica. Dicevo che sulla stampa Zagrebeschi incorona Grasso addirittura un buon leader. Gustavo Zagrebeschi, l'antipolitica superata dal riflusso totale, Rosatellum è incostituzionale e Grasso è una risorsa possibile, racconta a Giuseppe Salvaggiulo, l'ex presidente della Corte Costituzionale, sulla stampa pagina 7, è una risorsa possibile che potrebbe rivelarsi preziosa per il futuro. Tuttavia quel suo gesto di protesta gli avrà certamente alienato molte simpatie negli ambienti che contano. Anche per questo merita rispetto e apprezzamento. Abbiamo fatto una lunga disamina di cosa succede dopo questa sconfitta al centro-sinistra. Fra un attimo parliamo dei vincitori possibili, perché siamo ancora appesi a quell'exit poll, e poi andiamo sulle cose dei soldi e sulla mitragliata. Ciao papà, sei un Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... mattino. Allora 349-238-6666 per i vostri SMS e ricordate i messaggi in segreteria, già svegli e dintorni, 02-30-22-4492. Questo è 24 mattino e sono le 7:47 minuti e 05 secondi. Allora vi ho letto che cosa succede sul fronte della sinistra e c'è il centrodestra che festeggia. Allora il tempo, minchia che centrodestra. E il ritratto, Nello il missino che ha riunito la destra, Giancarlo il geometra che sognava di vincere, Rapisarda racconta chi è Nello Musumeci, che fino a oggi, ripetiamo, se non c'è una beffa, è il principale indiziato di vittoria secondo gli exit poll. Sebastiano Musumeci, per tutti Nello, è l'alfiere della destra siciliana con piglio autonomista, la sintesi fra civismo e esperienza che il centrodestra ha potuto rifiutare riunendosi attorno al suo nome, nonostante non ha potuto rifiutare nonostante Forza Italia e i cespugli avrebbero preferito una candidatura più centrista. Già, perché questo è il primo dato: il vincitore di oggi era stato osteggiato fortemente da alcuni degli alleati che lo hanno festeggiato. La lunga notte del presidente virtuale, sul Corriere della Sera Aldo Cazzullo, appeso a un filo, speriamo non sia il caos. Sì, perché ovviamente è dura, pensate di mettermi nei suoi panni, te ne vai a dormire che hai vinto e allora tocchi tutti gli scongiuri possibili. Sul foglio fuori della sezione PD di Militello è scritto: qui si vota Musumeci, il presidente virtuale della Sicilia, in tutti gli exit poll ma non ancora nello scrutinio vero, incredibilmente rimandato di un giorno, sorride. Nel 94 andai al ballottaggio con un centrista, si leggeva il presidente della provincia di Catania, il candidato comunista disse che votava per me, vinsi. Mio padre aveva votato monarchia al referendum, uomo qualunque la costituente, e poi PC. Oggi molti compagni fanno il voto disgiunto, quelli d'ordine sosterranno me, quelli confusionari sosterranno il grillino. Vabbè, è un ritratto divertente quello di Musumeci, però il dato dei 5 Stelle è interessante perché comunque si confermano il primo partito, solo le coalizioni cambiano il rapporto di forza. Allora, intanto vi do tre dati per orientarvi. Alle regionali del 2012 i grillini avevano il 14.9 in Sicilia, alle politiche del 2013 avevano il 29.5%, alle europee del 2014 il 26.3%, alle regionali di ieri, secondo gli exit poll, hanno una cifra che va dal 27 al 31 secondo Piepoli e dal 30 al 34, cioè molto di più per la 7, cioè quindi per EMG. Stiamo parlando di una crescita che porta a più che raddoppiare i voti nel giro di 5 anni. Ebbene, il Corriere della Sera, Alessandro Trocino, pagina 5, fa sentire la voce di Grillo attraverso una telefonata. Di Maio in campo, Grillo chiama, siamo noi i vincitori morali. Il candidato premier unico big al fianco di Cancelleri, giallo sul posto attribuito a Di Battista, faranno brogli. Attenzione, perché questa cosa, Di Battista era ospite pochi giorni fa, potrebbe far discutere. Andiamo andiamo alle notizie delle casette che mi incuriosiscono molto. Sul giornale a pagina 14, si racconta ancora i problemi delle casette dei terremotati. È una notizia che molti trascurano, invece ecco qui: Marche, la farsa delle casette, nessuno sa come montarle, dovevano essere consegnate 1555, sono pronte solo 260. Non ci sarà da arrabbiarsi? Beh, io direi di sì. Volevo farvi invece sentire che cosa accade sui temi economici. Fornero. Pagina pagina 18 di Repubblica parla la madrina della legge che ovviamente sta cambiando oggi con i suoi effetti a 4 anni di distanza, a 5 anni di distanza, la vita degli italiani, e lo fa difendendo l'innalzamento dell'età pensionabile. Non è facile, racconta Roberto Mania su Repubblica, pagina 18, stare nei panni di Elsa Fornero, economista torinese chiamata al governo negli anni bui della più profonda crisi istituzionale del dopoguerra. Il suo nome è legato alla riforma che ha strutturalmente mutato i connotati al sistema pensionistico italiano, fu fatta in fretta con tanti errori a cominciare agli esodati, ma evitò il commissariamento che invece è toccato alla Grecia. La legge Fornero continua a essere un nemico di buona parte dei partiti che allora la votarono e che ora si preparano alla campagna elettorale. Elsa Fornero vive con disagio tutto questo, Roberto Mania, Repubblica, pagina 6, dice che è riuscita a non far vincere, ma non esita a definire penosa e vigliacca la politica che inganna i cittadini con la promessa anziché parlare del linguaggio della verità. Ed ecco che cosa spiega l'ex ministra. L'Istat ha certificato l'incremento della speranza di vita di 5 mesi. È giusto aumentare? Direi proprio di sì, perché è una scelta che risponde a un'esigenza di medio periodo nell'interesse generale e non appunto nell'interesse elettorale. Questa era la Fornero, ne parleremo anche dopo, ma sul Sole 24 Ore si parla di due temi cruciali. Intanto il bonus per il lavoro dei giovani, ve l'ho letto nell'apertura e va bene. Poi di come si deve ristrutturare la casa in questa, diciamo, complicata, in questo complicato dispositivo di bonus. E poi di come l'IRI, bonus e l'ACE complicano l'acconto per i professionisti nella dichiarazione dei redditi. Le modifiche del 2017 e l'apertura di norme e tributi e l'effetto dei maxi iperammortamenti sui versamenti del 30 novembre. Quindi sul Sole di oggi la vera cosa da non perdere è la guida. 5 partite sotto esame, la bussola per i professionisti, oggi la prima puntata, il ricalcolo degli acconti, domani segnatevelo sull'agenda, gli obblighi in materia di antiriciclaggio che sono un altro tormento incredibile. Le banche su Libero, Libero attacca le banche oggi con un pezzo e un'intervista a pagina 8. E il pezzo di Zulin, prestiti, figli, bonifici, gli istituti ci fregano con l'interesse. Ale. E sempre sul Libero, a pagina 10, c'è la notizia della strage dei migranti. E è molto interessante tutto questo e ci dobbiamo fermare per il giornale radio. Risco licenziato. Mattarella si è incazzato, mentre invece Gentiloni si è calato i pantaloni. Forse crede, pensa e spera di trovare a primavera, anche piccolo e carino, un grazioso strapuntino.